as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, oggi ad Il Pane Nelle Rose parleremo di morti sul lavoro, parleremo di quello che è successo a Bologna, parleremo della manifestazione che c'è stata venerdì in tangenziale, dove eravamo anche noi, siamo entrati in tangenziale, l'avete visto sui giornali, potete trovare le immagini sulla pagina Facebook del Pane Nelle Rose, dove metteremo anche la puntata. Perché giovedì 10 aprile sulla tangenziale di Bologna, all'altezza dell'uscita 4, verso le 5:30 del mattino, purtroppo Francesco Dalò, di 60 anni, operaio, con contatto metalmeccanico, interinale, a 60 anni, pensate un po', ha perso la vita, è stato investito da un camioncino, e altri due uomini, non dobbiamo dimenticarli, di 27 e 49 anni, sono rimasti feriti. Ora, io vorrei lasciare alle parole di chi era lì con me in manifestazione. Abbiamo intervistato Simone Selmi, perché la FIOM ha programmato 2 ore di sciopero in uscita, tutto il territorio di Bologna. Così ha fatto anche la Fillea, perché questo operaio era inquadrato come metalmeccanico. E la FIOM, una volta che c'è un suo morto, sciopera, sempre. E non solo. E si costituisce parte civile, come farà anche questa volta. Questo l'abbiamo deciso al congresso e lo stiamo mantenendo. La Fillea ha programmato sciopero perché lui lavorava nei cantieri edili, anche se era un metalmeccanico. Sentiremo Simonazzi, segretario di Bologna, della Fillea, che ci spiegherà perché accade questo. E cosa accade quando succede una situazione del genere. Ecco, io adesso vi lascio un pezzo che purtroppo è sempre attuale, perché ormai i morti sono 1100, sono stati nel 2024, sentiamo che Simone Selmi cosa ci dirà, che a Bologna quanti sono stati nel 2024, ci darà un po' di dati e poi ci sentiremo per le conclusioni. Dove sono i compagni che possono fermare quelle mani assassine? caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Allora, siamo qui dove non vorremmo essere, siamo fuori da tangenziale, uscita 4, purtroppo ad un presidio per un'altra morte sul lavoro qui vicino all'aeroporto, Bologna, l'ennesima morte sul lavoro, era un metalmeccanico, io sinceramente non me l'aspettavo che fosse un metalmeccanico, è tangenziale, però anche i metalmeccanici sono in tangenziale. Siamo qua con Simone Selvi che ci spiegherà tutta la situazione. Sì, allora noi siamo qua oggi per un presidio con una dichiarazione di ora di sciopero in tutti i luoghi di lavoro, unitaria dei metalmeccanici e degli edili. Ieri è successo un infortunio mortale purtroppo in autostrada. Nel sistema degli appalti anche i metalmeccanici sono impegnati nei lavori di manutenzione autostradale, ma soprattutto siamo in un sistema di appalti dove viene applicato il contratto dei metalmeccanici ad somministrati, perché il lavoratore deceduto ieri è un lavoratore in somministrazione. Addirittura. Sì, quindi non è un lavoratore direttamente assunto dall'azienda di appalto, che è un'azienda del Ravennate, azienda piccolina, con qualche problema da un punto di vista di segnalazione. Ha 60 anni lui. Lui sì, però stiamo parlando di un lavoratore somministrato. Certo, 60 sì. Anni. Perché la somministrazione oggi non è più per i giovani. Certo. Anche nei sistemi di riorganizzazione occupazionale nel mondo delle imprese, nei sistemi di crisi, è chiaro che rimangono senza lavoro anche lavoratori non più giovani, quindi il percorso è la rimissione del lavoro e la somministrazione. Insomma, oggi c'è sciopero, abbiamo scioperato alla FIOM, sta dimostrando che c'è. Ogni volta abbiamo preso una decisione ormai da un po' di tempo che ogni volta che muore un lavoratore si sciopera e non solo. Esatto, noi abbiamo preso una decisione a livello congressuale come categoria, a livello nazionale, che ogni volta che c'è una morte sul lavoro si sciopera, ma soprattutto ogni volta che c'è una morte sul lavoro ci costituiamo parte civile al processo penale, perché è un danno che si crea al mondo del lavoro, al sistema democratico, alla Costituzione, il fatto della responsabilità sociale delle imprese, è un danno alla collettività, e quindi giustamente anche chi rappresenta la parte del lavoro si deve assolutamente determinare come parte civile all'interno dei processi penali. C'è stato un anno dalla strage di Suviana, la strage continua. Io ero presente a Suviana, c'era stato un intervento molto importante di un lavoratore dei cantieri di Bologna, qua vicino, e ci aveva spiegato questa situazione. Purtroppo è stata, insomma, aveva ragione lui. Sì, purtroppo a Bologna nel sistema degli appalti tra il 2024 e il 2012 come metalmeccanici siamo a 12 morti, quindi è un anno nero il 24, il 2025 non è partito esattamente in modo positivo, visto l'episodio di ieri, c'è un problema serio, c'è un problema di garanzie per i lavoratori in appalto, c'è un problema di progettazione della progettazione sugli appalti, cioè va determinato prima quello che è il costo dell'appalto e la committente deve tenere conto del costo dell'appalto, e tra le prime clausole della costruzione del progetto sui costi il tema della sicurezza è un tema assolutamente fondamentale. Formazione ma anche interventi in messa in sicurezza dei lavoratori nei cantieri e nel sistema degli appalti. C'è un referendum che andremo a votare l'8 e il 9 giugno che parla anche di questo, degli appalti. Assolutamente sì, è il referendum promosso dalla CGIL, il quesito numero 4, appunto è il quesito sul tema degli appalti, dove all'interno di questo quesito referendario stiamo portando avanti una battaglia che dovrà determinare, qualora il referendum passa, e questa è la posizione che noi stiamo, che deve passare, e andrà a determinare il fatto che le aziende committenti avranno responsabilità in solido anche penale rispetto appunto agli infortuni sul lavoro e alle morti sul lavoro, cosa che oggi non c'è, certo. Perché quello che è avvenuto a Suviana è grave, ma la cosa grave, altrettanto grave, è la dichiarazione del amministratore delegato di Enel che dice: noi là non sappiamo cosa è successo perché avevamo appaltato la lavorazione. Certo. Ma quello però, il luogo di lavoro è sempre di Enel, non è di qualcun altro. Ma ci provano sempre. Esatto, esatto. Grazie mille Simone. Niente. Allora, siamo qui con il segretario della Finlea di Bologna, Simonazzi, perché anche la Finlea, anche se era un metalmeccanico questo lavoratore, ho scoperto oggi, sinceramente, che era un metalmeccanico somministrato, ma la Finlea è qui. E qui sciopera perché insomma qua lavorava in un cantiere, immagino che queste sono le ragioni. La Finlea è qui perché questo è il quinto morto nella manutenzione stradale dall'inizio dell'anno in tutta Italia. Un morto in un'attività edile, è un'azienda metalmeccanica con un contratto di somministrazione, quindi indipendentemente dai fatti che andranno accertati, quali sono le responsabilità, si può tranquillamente dire che questo è un morto di appalto e di precarietà. E quindi noi siamo qui perché come Finlea stiamo facendo una battaglia a livello nazionale con l'ASPI sulla qualificazione di imprese, sulla qualificazione degli appalti, sulla manutenzione stradale, perché abbiamo un problema enorme. L'ultimo che è morto nella medesima attività a Cesena aveva il contratto dei multiservizi, l'ultimo che è morto a Rovigo aveva il contratto dell'agricoltura, quindi questo, noi vediamo che l'elusione contrattuale del contratto dell'edilizia, che è il più costoso, ma è il più costoso perché? Perché c'è la bilateralità che dà delle garanzie e soprattutto perché c'è la formazione obbligatoria sulla sicurezza. Sarebbe interessante capire se questo lavoratore l'ha fatta la formazione sulla sicurezza. L'elusione contrattuale... Di cantieri edili. Certo, assolutamente. Ecco, perché forse avrà fatto quella metalmeccanica che è molto, molto più blanda sicuramente, io sono metalmeccanico e lo so benissimo. L'elusione contrattuale è un altro dei tanti strumenti che peggiorano la sicurezza sui luoghi di lavoro. C'è il referendum, prima con Simone Selmi, di cui parla anche a questo, il fatto degli appalti, abbiamo visto, c'è stato un anno dalla strage di Suviana, io sono stato su, e si è parlato anche di questo, il fatto che sia del referendum, del fatto che la maggior parte degli infortuni avviene per gli appalti, avviene per abbassare i costi, l'hai spiegato benissimo, cioè, si eludono i contratti perché si vogliono abbassare i costi. Assolutamente, ad ogni catena di appalto, ad ogni gradino della catena di appalto, aumenta lo sfruttamento e la pressione nei confronti dei lavoratori. È ovvio che l'iniziativa referendaria è un'iniziativa che va a colpire, vuole andare a colpire la precarietà, vuole andare a colpire l'impossibilità in cui oggi sono soggetti i lavoratori di esigere i propri diritti. Di fatto l'articolo 18 è questo, dare la possibilità ai lavoratori di poter non solo avere i diritti, ma di poterli esigere, essere messi nelle condizioni di pretenderli, e va a intervenire sugli appalti provando a rimettere ripristinando la responsabilità in solido sui temi della sicurezza dell'appaltatore. È ovvio che è un'iniziativa che andrà a migliorare le condizioni di milioni di lavoratori, ma è anche altrettanto ovvio che non è sufficiente. Le iniziative messe in campo da questo governo non solo sono sbagliate, ma sono proprio deleterie. Certo. Grazie a tutti. Ne cito una per dirne, per essere chiaro, così giusto per citarne una per tutte. La patente a crediti in questo caso non c'entra niente. Questa è un'azienda a cui non si applica la norma sulla patente a crediti, questo per dirne una. E oggi è morto un lavoratore e questa azienda ancora stanotte avrà decine di cantieri che fanno esattamente la stessa cosa per tutta la regione. Cittadino proclamato dopo l'insieme di legge sull'omicidio sul lavoro va avanti perché so che la Finlea è tra i promotori, all'interno della CGL ha sempre combattuto per questo, contrastando, cioè ha avuto anche delle resistenze anche all'interno del nostro sindacato. Grazie ai delegati, più avanti su questo. Noi siamo per andare avanti, siamo forti sostenitori e siamo sostenitori dell'introduzione del crimine dell'omicidio sul lavoro, non per una questione tecnica, ma per una questione politica. Noi pensiamo che debba essere istituita una procura ad hoc sugli omicidi sul lavoro, perché la legislazione generale non risponde a quelle che sono le necessità che sono nel mondo del lavoro in termini di sicurezza. Il Paese Rosso è con voi anche su questo. Grazie mille, Simone. Grazie a voi. Volevo dirti tante cose ancora, da non saperle ricordare, raccontar di te che dormi mentre corro al lavoro. Avrei voluto aggrapparmi ancora al calore del tuo ventre, dalla mia cella senza sbarre, maledetta linea 5. Che corri, insegui le tue cose, le tue spine, le tue rose, non scordarti mai di me. Tu che sogni terre sconfinate e i fantasmi dell'estate, non scordarti. Non ci dimenticheremo mai di te, recita la canzone della banda popolare dell'Emilia Rossa. Questa canzone sarà dedicata ai morti della ThyssenKrupp, morti metalmeccanici, come tanti ce ne sono stati i nostri compagni operai metalmeccanici morti. Però Francesco D'Alò non dobbiamo dimenticarlo, non dobbiamo dimenticare che era un operaio che lavorava in un cantiere edile in tangenziale. E abbiamo visto quanti stavano lavorando in questo momento nei cantieri edili. Non dobbiamo dimenticare che aveva 60 anni che oggi un lavoratore deve ancora stare nei cantieri a 60 anni, questa è la vergogna di quello che ci stanno chiedendo ormai da anni, perché non ci sono soldi, perché bisogna fare sacrifici, perché i soldi servono per armare, per fare la guerra, e dunque l'odio mio va anche verso tutti i guerrafondai, serrapiattisti che in questo momento sono lì, che chiedono il riarmo usando i soldi nostri, e poi tocca lavorare a 60 anni in un cantiere alle 5 e mezza del mattino. Riesco da loro, non dobbiamo dimenticarlo, perché era un metalmeccanico. E perché hanno scelto il contatto metalmeccanico? Perché così come ha detto Simonazzi, scrivo della fillea, perché spesso nei cantieri edili si sceglie il contatto metalmeccanico, quel tipo di contatto, perché è meno oneroso, ci sono meno soldi da investire, non c'è bisogno della formazione, non c'è bisogno di fare dei corsi sulla sicurezza, che sono molto costosi, perché agli edili c'è la bilateralità cosiddetta, insomma. E allora si va sempre al ribasso, perché ci sono gli appalti a cascata, dove ci sono le responsabilità, e spesso le imprese edili utilizzano questo strumento per abbassare i costi. E il 70% purtroppo dei morti nel mondo dell'edilizia sono causati dagli appalti a cascata. È un dato ormai scientifico, non possiamo dimenticarci di questo dato. Ecco perché non dobbiamo dimenticare tutto questo, ed ecco perché siamo scesi in sciopero in tangenziale, abbiamo chiesto di bloccare per un po' la tangenziale, ci siamo messi i caschi, perché non si può entrare in tangenziale, visto che è una zona ormai di cantieri, siamo andati lì, siamo seduti, abbiamo fatto un piccolo corteo, non eravamo tantissimi, mi dispiace, perché se fossimo stati in tanti, avremmo fatto sicuramente, ci saremmo fatti vedere di molto di più. Però il giorno che Mattarella firmava il decreto di sicurezza, noi siamo in tangenziale. Questo è anche un altro messaggio contro chi non sta facendo nulla per evitare la strage, la guerra sui luoghi di lavoro, i morti, i crimini sui luoghi di lavoro. E io sono pienamente d'accordo, insieme a tutta la redazione del Pane Rose, hanno un omicidio sul lavoro, crimine sul lavoro. Dobbiamo trovare una legge che faccia sì che le persone che sono responsabili finiscono in galera, no? Come oggi che vediamo sempre di più, che la fanno franca. L'omicidio sul lavoro è questo, quando uno muore sul lavoro e ci sono delle responsabilità soggettive e oggettive di questo che accade. Non dobbiamo dimenticare tutto questo, e per questo dobbiamo scendere sempre di più volte in piazza, bisogna sempre scioperare ogni volta che c'è un grave infortunio oppure un morto sul lavoro, così come stiamo facendo a Bologna, e questo purtroppo non accade dappertutto. Però sempre di più sta accadendo, e questo è importante, anche se sono sordi le nostre guide, ecco perché dobbiamo aumentare la battaglia, fare le battaglie più incisive, perché altrimenti i soldi che serviranno per fare i corsi, per sistemare, per togliere gli appalti, per rendere il mondo del lavoro più gestibile e meno pericoloso, lo utilizzeranno per le armi. Lo continuo a dire, questa è una vergogna, dovrebbero vergognarsi queste persone, che spesso addirittura in televisione, che non parlano di morti sul lavoro, ma parlano della preoccupazione della guerra, delle invasioni russe, no? Ecco, io dico solo che in questo momento io sono davvero triste, il Pane Rose è in lutto, abbiamo partecipato a questa manifestazione come le facciamo sempre, siamo morti sul lavoro, eravamo lì presenti, lo saremo sempre, e saremo sempre a fianco di ognuno che vorrà lottare contro gli infortuni sul lavoro, e ogni volta che ci sarà un grave infortunio, un morto, noi saremo lì e chiederemo a tutti i nostri compagni di partecipare a queste iniziative di lotta, e speriamo che possa veramente portare una rivoluzione, perché oggi serve veramente una rivoluzione per cambiare radicalmente questo paese e per permettere a noi di tornare a casa vivi. Vi saluto con speranza di una rivoluzione futura. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos